Come abbiamo visto, non ci sono buone notizie che vengono dalle elezioni europee e dalle elezioni amministrative per Riace, perché la lista di Mimmo Lucano, come dire, è stata sconfitta dalla destra. Però non, i mondiali antirazzisti, come sapete, non si faranno intimidire e andranno a Riace dal 5 al 7 luglio. Prima, cioè questo fine settimana, dal 31 maggio al 2 di giugno, saranno nella storica location di Bosco Albergati. Quindi quest'anno si sono sdoppiati, hanno raddoppiato la loro presenza, forse anche perché, come dire, anche il clima che si respira in Italia lo richiede. Noi siamo al telefono con Daniela Conti per parlare appunto di questa doppia edizione 2019 dei mondiali antirazzisti. Buongiorno. Salve a tutti. Siete preoccupati per quello che è successo a Riace? Beh, allora, un clima di preoccupazione generale c'è, perché purtroppo fosse successo solo a Riace, invece in tutta Italia la tendenza, insomma, non è stata granché positiva. Ora, chiaramente noi non ci lasciamo abbattere, anche perché il motivo per cui abbiamo scelto Riace è perché noi crediamo assolutamente in quel modello di accoglienza, e che è il modello che noi come mondiali antirazzisti abbiamo sempre portato avanti, e cioè quello della convivenza, della conoscenza prima di giudicare, e di fare le cose insieme. Ed è per questo che i mondiali da 23 anni sono costruiti da tutti quelli che vengono. Noi lo diciamo sempre: i mondiali siete voi, siamo noi, e tutti quelli che vengono ai mondiali e che magari ogni anno ci propongono qualcosa di nuovo, o magari ci sottopongono delle emergenze che noi non avevamo captato, perché sono diverse da territorio a territorio. Ecco, per noi questo vuol dire fare accoglienza, ma nei confronti di tutti, di tutte le persone normalmente marginalizzate, quindi non solo dei rifugiati. E Riace in realtà ne era un esempio, nonostante che tutti hanno puntato l'attenzione sul gran numero di migranti che vivevano a Riace, dimenticando tutte le cose meravigliose che sono state fatte per la popolazione. Quindi noi comunque siamo lì a dimostrare questo. Poi ovviamente avremo tempo di tornare a parlare di Riace, però adesso, insomma, mancano pochi giorni a Bosco Albergati, quindi siete pronti? Siamo pronti, speriamo che lo sia anche il sole, ma noi siamo sicuri che, visto che ai mondiali c'è il sole sarà con noi, perché l'unica imprevisto a questo punto è appunto la sua presenza o meno. Siamo pronti, abbiamo una quarantina di squadre già iscritte, ma anche se avevamo detto che le iscrizioni chiudevano ieri, come al solito siamo magnanimi, perché già stamattina sono arrivati gli ultimi ritardatari, quindi in realtà un altro paio di giorni per iscriversi c'è ancora, anche nella pallavolo. Quindi comunque non sono i mondiali quelli che abbiamo conosciuto finora, perché abbiamo deciso appunto questo sdoppiamento. Come dicevi tu, è un momento in cui c'è bisogno di tante iniziative su vari territori, e quindi quest'anno il numero complessivo poi lo faremo alla fine. E su Bosco ci sono moltissime realtà del territorio emiliano-romagnolo, molte comunità, quest'anno molte comunità di minori non accompagnati, e la cosa ci fa molto piacere. E avremo anche però i nostri amici dello Schalke 04, che hanno deciso di venire sia a Bosco che a Riace, e quindi, non so, una menzione speciale, perché davvero sono i nostri amici più fedeli, possiamo dire. Ecco, quali saranno le novità appunto a Bosco rispetto a come abbiamo sempre conosciuto appunto i mondiali? Sarà all'interno di un'altra manifestazione, giusto? Esatto, saremo all'interno di Viver Verde, che è una manifestazione organizzata proprio da Bosco Albergati e che si occupa di ecosostenibilità, che tra l'altro è un tema che i mondiali hanno sempre avuto, caratterizzandosi come ecofesta. Quindi ancora di più puntiamo l'attenzione su un altro tema che, grazie ad una ragazzina molto tenace, finalmente forse si comincia a capire che dobbiamo davvero tenere al nostro ambiente e al nostro mondo. Quindi siamo all'interno di questa manifestazione. Il torneo di calcio ci sarà sempre. Partiamo venerdì con la stretta di mano sui campi alle 3:30 e chiuderemo domenica intorno all'una di pranzo, con anche un'incursione importante, che sono le finali del torneo di Mondi, che oramai è diventato un grande torneo annuale che si gioca a Bologna con molte delle squadre dei mondiali, quindi ci sarà spazio anche per fare un po' di tifo per queste squadre che giungono alle fasi finali divertendosi molto. Chiaramente parliamo sempre di un torneo che fa divertire le persone. E poi sabato e domenica avremo la pallavolo. In più quest'anno la novità è che ci sono 3 progetti europei che si andranno un po' ad incrociare con una novantina di ragazzini da tutte le parti d'Italia che hanno fatto un progetto insieme alla WISP, ActionAid, CESVI, parlando di Millennium Goal, quindi si ritorna a temi importanti. Avremo una 30 di ragazzi da diverse parti d'Europa che vengono a studiare proprio il modello mondiale antirazzisti per poi replicarlo nei loro paesi o comunque trarre ispirazione, un progetto europeo coordinato in questo caso dalla WISP, e poi la chiusura di un altro progetto europeo di cui la WISP è partner, è su proprio il tema sport e rifugiati, come si fa a iniziare a lavorare con i rifugiati all'interno delle proprie associazioni sportive. Quindi avremo un po' di gente che girerà, chi chiacchiera, chi gioca, chi fa il tifo, come sempre sarà un mondo multiculturale e pieno di gente varia. Allora ricordiamo l'appuntamento il 31 maggio, 1 giugno e 2 giugno a Bosco Albergati, appunto per come dire il primo tempo, chiamiamolo così per usare esatto, proprio anche un lessico sportivo, dei mondiali antirazzisti. Il secondo tempo sarà poi a Riace, per il quale continua anche la raccolta fondi per andare da Bologna e quindi permettere anche a chi non ha, come dire, le possibilità economiche di esserci lo stesso. Assolutamente sì, è molto bello che appunto Bologna abbia risposto in maniera così forte, e immaginandosi anche di andare insieme e portando le persone più con più difficoltà. L'abbiamo detto molte volte, vogliamo andare a Riace, però non vogliamo che poi a Riace ci vadano quelli che hanno la possibilità di comprare il biglietto treno, aereo o pullman e di comunque dare un contributo, seppur minimo, alle case d'accoglienza piuttosto che ai campeggi. Vorremmo davvero portare il mondo multiculturale che vediamo ai mondiali, anche del nord, perché chiaramente invece la risposta che stiamo avendo dal sud è molto bella, perché molti dei centri di accoglienza o comunque comunità che negli anni passati non riuscivano a salire fino a Bologna, invece a Riace vengono, quindi ci sarà un nuovo incontro. Però ecco, non vogliamo dimenticarci di nessuno, perché altrimenti avremmo fallito un obiettivo. Quindi continuate a seguire le iniziative che si stanno facendo soprattutto sul territorio bolognese. Poi ci sarete anche voi della radio con noi, quindi sì, noi esatto, per quanto riguarda Bosco Albergati faremo le dirette dai campi, ma non mancheremo nemmeno a Riace, perché insomma non potevamo perderci questa occasione. Ricordo alle ascoltatrici e ascoltatori che comunque le informazioni sono disponibili sul sito www.mondialiantirazzisti.org. Grazie mille Daniela. Grazie a voi. A presto. A presto.